nel nostro comunicato ho voluto accennare anche a questo, che questa operazione sia un po' da stimolo per suscitare quell'orgoglio, quell'entusiasmo di cui l'impresa italiana ha bisogno per uscire dalla crisi. Quindi questo è il mio augurio, per noi sarà così. Senta, dottor Bono, entriamo un po' più nel dettaglio. Questo contratto per la costruzione di queste 10 navi, il valore della prima unità è di 437 milioni di dollari, che però lieviteranno e non poco. Eh sì, il contratto globale da qui al 2015, quindi praticamente in 5 anni, supererà i 4 miliardi di dollari, quindi è un grosso contratto, ma sappiamo che i numeri della difesa americana non hanno comparazione con quelli italiani. Pensiamo che questo tipo di navi ne sono previste in costruzione 55 nella partita 2020, quindi diciamo che i nostri cantieri possono respirare per un lungo periodo. Per quanto riguarda la costruzione, sappiamo che avverrà nei vostri cantieri americani, però una parte, almeno della componentistica, poi verrà anche dal nostro paese. Noi quando abbiamo comprato questi cantieri 2 anni fa, l'abbiamo comprati con l'obiettivo di prendere questa grande commessa, alla quale peraltro avevamo lavorato, perché questa nave è veramente non pusulca per quanto riguarda le navi militari di medie dimensioni, è derivato dalla carena di una nostra costruzione che sta al destiero, che ha ancora il record per la traversata atlantica, il nastro azzurro. E quindi quando l'abbiamo preso con questo obiettivo. Si sa che negli Stati Uniti e quasi in tutti gli altri paesi i contratti militari bisogna svolgerli nei paesi stessi, quindi adoperando cantieri locali, però possiamo dare una componentistica importante. Noi abbiamo una divisione componentistica che è all'avanguardia, e quindi insomma una parte del lavoro insomma arriverà anche dall'Italia.